si continua a sostenere con una certa insistenza che cristiani e musulmani adorano lo stesso Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Non solo. Si sostiene pure che ebrei, cristiani e musulmani credono nello stesso Dio creatore unico, giusto e trascendente. Come sia possibile sostenere tale tesi? È incomprensibile alla mia mente perché o cristiani, ebrei e musulmani hanno perso la loro identità in quanto tali, o si sta giocando ad un gioco molto pericoloso la cui fine è imprevedibile. Per gli ebrei e musulmani Dio non può avere un corpo, non può essere il padre di Gesù Cristo, non può essere trino, mentre per i cristiani è tutto questo. Vi è perciò una divergenza abissale che non può essere in nessun modo colmata e ignorata. Perché, allora, si continua a sostenere con apparente, sincera convinzione che ebrei, musulmani e cristiani credono nello stesso Dio? In merito agli ebrei, si sostiene che poiché cristiani e ebrei hanno la loro fede sugli stessi testi sacri per ciò che riguarda l'Antico Testamento, per forza di cose hanno fede nello stesso Dio. In merito ai musulmani, si sostiene che il loro Dio chiamato Allah è lo stesso Dio dei cristiani, con un nome solamente diverso. Anziché chiamare la loro divinità Dio, i musulmani la chiamano Allah, cambia solo il nome, ma non la sostanza, si sostiene. Eppure, come abbiamo detto, vi sono delle differenze abissali che non possono in nessun modo essere conciliate. Proprio perché si continua a sostenere che ebrei, cristiani e musulmani credono nello stesso Dio, è opportuno una volta per sempre definire la fede di ogni religione. Soltanto una volta chiarita ogni posizione sarà possibile verificare se veramente ebrei, musulmani e cristiani credono nello stesso Dio. Secondo l'Islam, il primo e più grande insegnamento viene proclamato con la Shahada, la Illallah. Muhammadan Rasulullah, cioè non che è Dio all'infuori di Allah e Maometto è il profeta di Allah. Per il musulmano, Allah è uno, Wahid, e non ha né partner né uguali. Nel Corano, Sura 28, 88, leggiamo: non invocare nessun altro Dio insieme ad Allah. Allah totalmente diverso, totalmente distinto, totalmente unico. Per il fatto che è unico, nessun altro può condividere con lui nemmeno un atomo della sua forza e della sua autorità divina. Il Corano mette in chiaro che Allah non ha figli, né padre, né parenti e neanche simili. Gli ebrei, al tempo della stesura dei loro scritti sacri, cioè l'Antico Testamento, non credevano, come comunemente si pensa, in Dio quale noi lo percepiamo, ma in Yahweh. Esaltate Yahweh Dio nostro e adorate sul suo monte santo, perché Yahweh Dio nostro è santo, Salmo 99, 9. Che Yahweh sia Dio e che sia stato il loro Dio, cioè la loro divinità, è fuori discussione, Deuteronomio 26, 17. Ma dichiarare che gli ebrei credevano in Dio equivarrebbe a spersonalizzare la loro fede e creare confusione. Per l'ebreo, nell'ambito religioso, tutto si centrava su Yahweh. Poiché Yahweh è il nostro giudice, Yahweh è il nostro legislatore, Yahweh è il nostro re, egli ci salverà. Isaia 33, 22. Ogni altra divinità all'infuori di Yahweh non era Dio. Poiché Yahweh è grande e degno di somma lode, egli va temuto sopra tutti gli dèi. Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma Yahweh ha fatto i cieli. Salmo 96. 4 a 5. Questa era ed è la fede degli ebrei. La fede dei cristiani, per quanto possa avere punti in comune con gli ebrei e musulmani, è diversa. Non solo da queste due, ma da ogni altra religione che si conosca. E diversa perché è l'unica fede che ha le sue radici in un'altra fede, cioè quella ebraica. Mentre ogni religioso si vanta della esclusività della sua fede, i cristiani sono orgogliosi di possedere e mantenere la fede ebraica. Del questo il cristianesimo non è nato, come si pensa, 2000 anni fa, ma esso è il prolungamento della fede tramandata una volta e per sempre ai santi dell'Antico Testamento, avendo in comune con Questa gli stessi testi sacri dell'Antico Testamento. I cristiani credono in Yahweh, quale creatore e Signore, credono che sia il loro legislatore, il loro re, il loro salvatore. Yahweh stesso tramite i profeti lo dichiara apertamente. Io sono Yahweh e all'infuori di me non c'è salvatore. Isaia 43:11. Proprio per questa chiarezza gli apostoli e i primi cristiani hanno potuto riconoscere in Yahweh Gesù Cristo, il loro unico Dio Signore e Salvatore, Tito 1:1-4. Lo stesso Gesù durante la sua vita terrena ha testimoniato più volte di essere la divinità di Israele, sia col dire che i padri dell'Antico Testamento lo avevano visto, Giovanni 8:56, sia usando il nome con il quale Yahweh si era manifestato a Mosè, cioè Io Sono. Solo con questa comprensione del cristianesimo è possibile mettere chiarezza nella pluralità delle religioni. Se Yahweh, cioè Cristo, è la divinità dei cristiani, non è possibile sostenere che musulmani e cristiani adorano lo stesso Dio. Il Dio dei musulmani è un Dio sconosciuto, impersonale, senza storia, nella storia dell'uomo, mentre Cristo è la divinità di Israele, fattosi uomo e vissuto tra gli uomini. Il termine Allah ita Dio suto in perso kanaukuman nel kassahita kaosaita di ususina. Il teru Allah ita mari imana Allahu manalatatevin. Il termine Allahu kulusutovina. Erquent rimane semplicemente un nome che i musulmani usano, per questo che è indispensabile comprendere cosa intendiamo con il termine Dio. Quando i cristiani confessano che Gesù è figlio di Dio, non è possibile tradurre in arabo che Gesù è il figlio di Allah. È vero che in arabo non vi è altro termine per definire la divinità dei musulmani quale Dio, se non Allah, ma è pure vero che alla luce della fede cristiana e musulmana, definire Gesù Cristo figlio di Allah è veramente una bestemmia per entrambe le religioni. Se un musulmano afferma che Gesù è figlio di Allah, egli intende che la sua divinità ha un figlio, e ciò per loro è blasfemo. Se un cristiano afferma che Gesù è figlio di Allah, significa che per lui Allah è Dio Padre, cioè Yahweh, e Gesù suo figlio. Ma questo approccio è la genesi di tanti errori. Dobbiamo essere fedeli alla verità, nella forma presentata nella Scrittura, oppure la perdiamo completamente. Molto onestamente non comprendo come si possa affermare che cristiani e musulmani professano lo stesso Dio. Nel Corano, alla quinta sura, versetto 76, leggiamo: «In vero sono miscredenti quelli che dicono, in verità Dio, cioè Allah, in arabo, è il Messia». Mentre nel versetto 77 leggiamo: «In verità Dio, cioè Allah, è il terzo dei tre». Questa testimonianza ci dice indirettamente che al tempo della stesura del Corano i cristiani predicavano che il Messia, cioè Gesù Cristo, figlio di Maria, è Dio ed è uno dei tre. Perciò i cristiani, dovendo far comprendere ai musulmani che Gesù è Allah ed è uno dei tre, come possono affermare di avere uno stesso Dio con i musulmani quando un musulmano non accetta Gesù Cristo quale Allah e la Trinità? O sbagliavano i primi cristiani? O i cristiani di oggi hanno cambiato qualcosa del loro credo? Per districare la matassa di tanta confusione nelle religioni, i cristiani ancora una volta devono avere le idee chiare su Gesù Cristo. Quando gli scrittori biblici affermano che Gesù è la pietra angolare della fede cristiana o la pietra d'inciampo per chi non crede, sostengono che Gesù è colui che ci fa comprendere chi è Dio e dissipa le tenebre dell'ignoranza. O, diversamente, Gesù stesso diventa la ragione per cui non è possibile comprendere Dio. L'apostolo Giovanni è stato categorico: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. In questa proposizione troviamo il termine Dio, e cioè che nessuno ha visto Dio. Simile affermazione, in arabo andrebbe tradotta nessuno ha visto Allah, mentre un ebreo comprenderebbe che nessuno ha visto la divinità di Israele. Questo potrebbe indurre a farci pensare che né Allah né la divinità di Israele siano stati visti da occhio umano. Che nessuno abbia visto Allah è normale, perché Allah rimane un nome riferito ad un essere impersonale, ma non è così per la divinità di Israele. Yahweh è stato visto e toccato, perciò l'espressione fatta da un ebreo "nessuno ha visto Dio" deve essere compresa. Il termine Dio, nell'affermazione "nessuno ha visto Dio", vuole significare che nessuno ha visto la pluripersonalità della divinità di Israele. Poiché Yahweh ha rivelato l'esistenza del Padre e dello Spirito Santo, entrambi eterni e costerni, in seno alla divinità di Israele vi sono tre persone. Dato che i cristiani da sempre credono in tre persone partecipi della stessa natura ma distinte come persone, non è possibile in nessun modo sostenere che cristiani, musulmani ed ebrei adorino lo stesso Dio o la stessa divinità. Il Dio degli ebrei è tanto lontano che perfino il suo nome non si può pronunciare. Il Dio dei musulmani è trascendente, al punto che non può partecipare se stesso con ciò che ha creato. Queste riflessioni non sono puramente accademiche, ma hanno lo scopo di annunciare che la divinità di Israele non è trascendente al punto da non poter partecipare se stesso con ciò che ha creato, né tanto lontano da non comprendere l'uomo che ha formato, ma che egli è intervenuto nella persona di Gesù Cristo, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo. Divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso. Divenendo ubbidiente, nessuna religione presenta la propria divinità in questo modo. Per un ebreo Dio non può avere un corpo, per un musulmano Dio non può morire per i peccati degli uomini. La divinità dei cristiani è unica in tutti i modi. È unica perché in seno alla divinità vi sono tre persone. È esclusiva perché una delle persone, cioè il Figlio, chiamato tale quanto ha relazione rispetto alle altre due, ha assunto un corpo per essere simile in tutto e per tutto agli uomini e per morire quale uomo al fine di condurre la creatura in comunione con Dio. Questo piano divino concepito da Dio fin prima della creazione è sorto quale atto d'amore verso una creatura imperfetta, malvagia, ribelle. L'essere umano può concepire un Dio trascendente, onnipotente, misericordioso o, come fanno i musulmani, dare alla divinità 99 attributi perché sono verità credibili. Ma è impossibile per una mente umana pensare che Dio salvi lui stesso la sua creatura, per grazia, cioè senza merito, a costo della propria vita. Il carattere umile nascosto di Dio in Gesù Cristo, la debolezza e la povertà del Dio incarnato, tutto ciò che impedisce agli uomini di credere, è l'oggetto unico della fede vera. La verità di Dio non ha altra potenza che non sia proprio questa impotenza. Tutte le nozioni di divinità, tutti gli attributi divini elaborati dalle diverse religioni possono avvicinarsi e perfino confondersi con le nozioni bibliche, ma ci nascondono il vero Dio se ci velano colui che ne è la sola immagine, Gesù Cristo. La fede cristiana è unica, perché si può credere al Dio che gli ebrei confessano o sottomettersi ad Allah e rimanere padroni della propria logica, ma non è possibile credere a Gesù Cristo e in Gesù Cristo senza rinunciare alle proprie certezze. Solo questo aspetto fa del cristianesimo una fede che non può essere paragonata né confusa con altre fedi. La rivelazione di Gesù Cristo o illumina o acceca. A noi sta la scelta. Giugno 2004. Ellero.